98.6兆赫，歌舞剧场，每天10点、22点播出。 Once upon a dream。 欢迎继续收听歌舞剧场，在接下来的节目中，请欣赏一组著名的歌剧唱段，选自乔尔达诺的歌剧《安德烈·谢尼埃》，卡塔拉尼的歌剧《拉瓦利》，齐拉亚的歌剧《阿德里安娜·莱克弗鲁尔》，莫扎特的歌剧《唐璜》，德里布的歌剧《拉克美》。 amata mia. Il catalogo è questo, delle belle camo in padron mio. Un catalogo è che ho fatto io. Osservate, leggete con me. Osservate, leggete con me. In Italia 640, in Germania 231, 100 in Francia, in Turchia 99, in Spagna, ma in Spagna sono già 1003, 1003, 1003. Andrà queste contadine, cameriere cittadine, contessi baronesse, marchesane, principesse, e fantoni, donne gatto, donne forma, donne età, donne donna, donne età. In Italia 740, in Germania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, mamma, mamma, in Spagna, ma in Spagna sono già 1003, 1003, 1003. Fanno questi contadini, cameriere, cittadini, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse, e tanto ogni ogni quanto ogni forma, ogni forma, ogni forma. Voi sapete Pensò che Petrillo tuo Maiden Oh, quando sta figlio, spettino, figlio, spettino, figlio, spettino. Tu vai, scogli, scogli, sticcan. Tu vai, scogli, scogli, sticcan. Mi scogli, sticcan, mi scogli, sticcan. Riscio, Petrillo, Petrillo. Furt, aspettare. Ma che pensi in fondestelle, Bist du so gehorchen, der Schwer, so gehorchen, der Schwer. Ich so will, ich so will, ich so will. Bravo! La la la la la la la!

e come sarà giunto, chi dirà, chi dirà, chi amerà butterfly. Thank you. Thank you. Pensier